È stato mostrato quanto sia importante per il discepolo l'incontro con il cosiddetto piccolo guardiano della soglia, perché in esso egli prende coscienza di un essere soprasensibile che in certo qual modo ha prodotto lui stesso. Il corpo di questo essere è costituito dalle conseguenze, per lui finora invisibili, delle sue azioni, dei suoi sentimenti e pensieri. Quelle forze invisibili sono divenute le cause del suo destino e del suo carattere. Il discepolo ora si rende conto come nel passato egli stesso abbia posto le basi del suo presente. In tal modo gli si rivela fino ad un certo grado il suo essere. In lui vi sono, per esempio, determinate tendenze ed abitudini. Ora può farsi una ragione del perché le ha. Lo hanno colpito talune sventure, ora riconosce da dove provengano. Diventa consapevole della ragione per cui egli ama una persona e ne odia un'altra, perché questa o quella cosa lo rende felice o infelice. La vita visibile gli diventa comprensibile tramite le cause invisibili. Anche i fatti essenziali della vita, malattia e salute, morte e nascita, si svelano al suo sguardo. Nota che prima della sua nascita ha intessuto le cause che dovevano di necessità ricondurlo nella vita. Conosce ormai in sé l'entità che in questo mondo visibile è costruita in modo imperfetto e che può essere portata a perfezione soltanto in questo mondo visibile, perché in nessun altro mondo si presenta l'occasione di lavorare al suo perfezionamento. Vede inoltre che la morte non può separarlo per sempre da questo mondo. Deve infatti dirsi: venni un tempo per la prima volta in questo mondo, perché allora ero un essere che aveva bisogno della vita in questo mondo per acquisire qualità che non avrei potuto conseguire in nessun altro mondo. Devo rimanervi legato finché non avrò sviluppato in me tutto ciò che in esso può essere acquisito. Potrò un giorno lavorare utilmente in un altro mondo, quando avrò acquistato nel mondo visibile tutte le capacità a ciò necessarie. È infatti una delle esperienze più importanti dell'iniziato imparare a conoscere ed apprezzare la natura visibile nel suo vero valore, meglio di quanto non facesse prima della sua educazione occulta. Questa conoscenza gli proviene appunto dalla sua visione del mondo soprasensibile. Chi non ha avuto tale visione e presume perciò che le regioni soprasensibili abbiano un valore infinitamente superiore, può sottovalutare il mondo sensibile. Chi invece è penetrato con lo sguardo nel mondo soprasensibile sa che senza le esperienze nella realtà visibile si troverebbe ridotto all'impotenza nella realtà invisibile. Per poter vivere in quest'ultima deve avere strumenti e capacità adatti a quella vita, può però acquisirli soltanto nel mondo visibile. Egli dovrà poter vedere spiritualmente per divenire cosciente nel mondo invisibile. Tale facoltà visiva nel mondo superiore si sviluppa però gradatamente dalle esperienze in quello inferiore. Non si può nascere in un mondo spirituale con gli occhi spirituali se questi non sono stati sviluppati nel mondo sensibile, così come il bambino non potrebbe nascere con occhi fisici se questi non si fossero formati nel grembo materno. Da questo punto di vista si potrà anche comprendere perché la soglia del mondo soprasensibile sia custodita da un guardiano. Non deve infatti in nessun caso essere concesso all'uomo di avere una vera visione in quelle regioni se prima non ha acquistato le capacità necessarie. Perciò, ad ogni sua morte, quando l'uomo entra nell'altro mondo senza aver ancora acquisito la capacità per lavorarvi, gli viene steso dinanzi un velo che gliene nasconda l'esperienza. deve vedere quel mondo soltanto dopo esserne diventato maturo. Quando il discepolo entra nel mondo soprasensibile, la vita acquista per lui un significato del tutto nuovo. Vede nel mondo sensibile il campo in cui germogliano i semi per un mondo superiore. In un certo senso, il mondo superiore gli sembrerà incompleto senza quello inferiore. Gli si aprono due prospettive, una sul passato, l'altra sull'avvenire. Egli guarda in un passato in cui il mondo sensibile ancora non esisteva. Già da molto tempo si è infatti liberato dal pregiudizio che il mondo soprasensibile si sia sviluppato da quello sensibile. Sa che prima esisteva il mondo soprasensibile e che tutto quello sensibile ne è derivato. Vede che egli stesso, prima di essere venuto per la prima volta nel mondo sensibile, faceva parte di un mondo soprasensibile. A quel mondo soprasensibile occorreva attraversare una fase sensibile. L'ulteriore evoluzione non sarebbe stata possibile senza quel passaggio. Il mondo soprasensibile potrà proseguire la sua evoluzione soltanto quando, nel mondo sensibile, si saranno sviluppati esseri dotati di capacità adeguate. Questi esseri sono gli uomini. Così come ora vivono, essi derivano da una forma imperfetta dell'esistenza spirituale e in quella forma vengono condotti alla perfezione mediante la quale diventeranno idonei per l'ulteriore elaborazione del mondo superiore. Qui, appunto, si apre l'orizzonte verso l'avvenire. Esso rivela un gradino superiore del tutto soprasensibile che conterrà i frutti di ciò che è stato elaborato in quello sensibile. Come tale, quest'ultimo sarà superato, ma i suoi risultati verranno incorporati in un mondo superiore. Con questo è data la spiegazione della malattia e della morte nel mondo sensibile. Cioè, la morte non è altro che l'espressione del fatto che l'antico mondo soprasensibile era arrivato ad un punto in cui da sé non poteva più progredire. Sarebbe andato soggetto ad una morte generale se non avesse ricevuto un nuovo impulso di vita. Questa nuova vita è perciò diventata una lotta contro la morte generale. Dai resti di un mondo moribondo e in sé irrigidito si sono sviluppati i germi di un mondo nuovo. Per questo abbiamo nel mondo la morte e la vita. La trasformazione delle cose procede lentamente. Le parti morenti del vecchio mondo sono ancora legate ai nuovi germi di vita che esse stesse produssero. Questo si manifesta nel modo più preciso, appunto, nell'uomo. Egli porta seco, come involucro, ciò che si è conservato dell'antico mondo. Nell'involucro si forma il germe dell'essere che vivrà in avvenire. È perciò un essere duplice, perituro ed imperituro. Quello perituro è nel suo stato finale, quello imperituro in quello iniziale. Soltanto in questo duplice mondo che si esprime nel sensibile fisico, egli acquisisce però le capacità di ricondurre il mondo all'immortalità. Il suo compito è appunto quello di trarre dal mondo perituro stesso i frutti per quello imperituro. Se quindi guarda al proprio essere che egli stesso ha costruito nel passato, deve dirsi: ho in me gli elementi di un mondo morente. Essi lavorano in me e solo gradatamente potrò spezzare il loro potere grazie ai nuovi elementi immortali che vanno nascendo. Così il cammino umano si svolge dalla morte alla vita. Se al momento della morte egli potesse parlare a se stesso con piena coscienza, dovrebbe dirsi: Il peritura è stato il mio maestro, il mio morire è conseguenza dell'intero passato con cui sono intessuto. Il campo del perituro ha però maturato in me i germi per l'imperituro. Li porto con me in un altro mondo. Se tutto dipendesse soltanto dal passato, non sarei mai potuto nascere. La vita del passato si chiude con la nascita. La vita nel mondo sensibile è sottratta alla morte universale dal nuovo germe di vita. Il tempo fra nascita e morte è soltanto l'espressione di ciò che la nuova vita poté salvare dal passato morente. La malattia non è che la continuazione delle parti morenti di quel passato. Tutto ciò spiega perché solo gradatamente l'uomo possa farsi strada dall'errore e dall'imperfezione alla verità e al bene. Le sue azioni, i suoi sentimenti e i suoi pensieri sono anzitutto sotto il dominio del corruttibile e del perituro. Da questo sono formati i suoi organi sensibili fisici. Di conseguenza, tali organi e tutto ciò che li stimola sono soggetti a corruzione. Non gli istinti, gli impulsi o le passioni, né gli organi ad essi corrispondenti rappresentano l'imperituro. Sarà invece imperituro il risultato dell'opera degli organi. Soltanto quando avrà elaborato dal perituro tutto ciò che in esso vi è da elaborare, l'uomo potrà abbandonare la base dalla quale è sorto e di cui è espressione il mondo fisico sensibile. Così, il primo guardiano della soglia rappresenta l'immagine dell'uomo nella sua duplice natura, commista di perituro ed imperituro. Nel guardiano si mostra chiaramente ciò che ancora difetta all'uomo per raggiungere la sublime figura di luce che potrà di nuovo dimorare nel puro mondo spirituale. Il grado in cui l'uomo si trova impigliato nella natura fisico sensibile gli diventa visibile per mezzo del guardiano della soglia e si esprime anzitutto nell'esistenza di istinti, impulsi, brame, desideri egoistici in tutte le forme dell'interesse personale e così via. Si esprime anche nel vincolo che lo lega ad una razza, ad un popolo, perché popoli e razze sono soltanto gradini di evoluzione verso la pura umanità. Una razza, un popolo, sono tanto più elevati quanto più perfettamente i loro componenti esprimono il puro tipo ideale dell'umanità, quanto più si sono innalzati col loro lavoro dal perituro fisico all'imperituro soprasensibile. L'evoluzione dell'uomo attraverso le reincarnazioni in forme sempre superiori di popoli e di razze è perciò un processo di liberazione. In ultimo, egli deve apparire nella sua armonica perfezione. In modo analogo è un perfezionamento il passaggio attraverso forme morali e religiose sempre più pure, perché ogni gradino morale contiene ancora la brama del perituro accanto ai germi idealistici dell'avvenire. Così, nel guardiano della soglia che abbiamo descritto, si manifesta soltanto il risultato del tempo passato, mentre dei germi dell'avvenire vi è soltanto ciò che durante quel passato vi si è intessuto. Però l'uomo deve portare con sé nel futuro mondo soprasensibile tutto ciò che può estrarre dal mondo sensibile. Se volesse portare con sé soltanto ciò che del passato ha intessuto nella sua controimmagine, avrebbe solo in parte compiuto la sua missione terrena. Perciò, dopo qualche tempo, al piccolo guardiano della soglia viene ad associarsi quello grande. Di nuovo, descriveremo nella forma di una narrazione quel che si svolge nell'incontro con questo secondo guardiano della soglia. Dopo che il discepolo ha riconosciuto ciò di cui si deve liberare, gli si presenta sul cammino una sublime figura di luce, la cui bellezza è difficile da descrivere nelle parole del nostro linguaggio. Questo incontro avviene quando gli organi del pensare, del sentire e del volere, anche per il corpo fisico, si sono a tal punto separati che la regolazione delle loro reciproche relazioni non è più determinata dagli organi stessi, ma avviene per virtù della coscienza superiore che si è ormai completamente separata dalle condizioni fisiche. Gli organi del pensare, del sentire e del volere sono allora diventati strumenti dell'anima umana che, dalle regioni soprasensibili, esercita il suo dominio su di essi. All'anima, che si è così liberata da tutti i legami sensibili, si presenta ora il secondo guardiano della soglia e parla ad un dipresso nel modo seguente. Ti sei liberata dal mondo dei sensi, ti sei conquistata il diritto di vivere nel mondo soprasensibile. Da qui puoi ormai agire. Nella sua forma attuale non ti è più necessaria la corporeità fisica. Se tu volessi soltanto avere la capacità di dimorare nel mondo soprasensibile, non avresti più bisogno di ritornare in quello sensibile. Però guardami, vedi quanto io sia infinitamente superiore a ciò cui hai già potuto evolvere in te. Sei arrivata al gradino attuale del tuo perfezionamento grazie alle capacità che hai potuto sviluppare nel mondo dei sensi fino a quando ancora ne dipendevi. Però ora deve cominciare per te un periodo in cui le tue forze liberate dovranno ulteriormente lavorare al mondo dei sensi. Fino ad allora hai liberato soltanto te stessa, ora da libera, puoi lavorare alla liberazione di tutti i tuoi compagni nel mondo sensibile. Fino ad oggi i tuoi sforzi sono stati soltanto individuali. Ora devi inserirti nel tutto, in modo da portare nel mondo soprasensibile non soltanto te stessa, ma anche tutto ciò che esiste in quello sensibile. Potrai una volta unirti alla mia figura, ma io non posso essere felice finché vi siano ancora degli infelici. Individualmente liberata, vorresti già oggi entrare per sempre nel regno del soprasensibile. Allora, però, dovresti abbassare lo sguardo sugli esseri irredenti del mondo dei sensi e avresti separato il tuo destino da loro. Però siete tutti legati fra voi. Tutti dovreste discendere nel mondo dei sensi per attingerne le forze per un mondo superiore. Se ti staccassi dagli altri, faresti cattivo uso delle forze che hai potuto sviluppare soltanto in comune con loro. Se essi non fossero discesi, nemmeno tu avresti potuto farlo. Senza di loro ti sarebbero mancate le forze per la tua esistenza soprasensibile. Devi spartire anche con loro le forze che hai acquisite assieme a loro. Ti proibirò quindi l'entrata nelle regioni superiori del mondo soprasensibile finché non avrai impiegato tutte le forze da te acquisite per la liberazione dei tuoi simili. Con ciò che hai già conseguito, puoi trattenerti nelle regioni inferiori del mondo soprasensibile, ma davanti alla porta delle regioni superiori, io sto come il cherubino con la spada di fuoco davanti al paradiso e te ne impedisco l'ingresso finché ti rimarranno forze non impiegate nel mondo sensibile. Se non le vuoi impiegare, verranno altri che le impiegheranno. Allora un elevato mondo soprasensibile raccoglierà tutti i frutti di quello sensibile, ma a te verrà sottratto il terreno sul quale hai potuto crescere. Il mondo purificato si svilupperà ulteriormente al di fuori di te. Tu ne rimarrai esclusa, così la tua via sarà quella nera. Coloro invece che hai abbandonato seguono la via bianca. Così si annuncia il grande guardiano della soglia, poco tempo dopo l'incontro col primo guardiano. L'iniziato sa però esattamente ciò che lo attende, se cede alla tentazione di una dimora prematura nel mondo soprasensibile. Dal secondo guardiano della soglia irradia uno splendore indescrivibile. L'unione con lui si presenta all'anima veggente come una meta lontana. Le si presenta però al tempo stesso la certezza che quell'unione si avvererà soltanto se l'iniziato avrà anche adoperato tutte le forze che gli sono affluite da questo mondo per la liberazione e la redenzione del mondo. Se si decide a seguire le richieste della sublime figura di luce, egli potrà contribuire alla liberazione del genere umano, offre i suoi doni sull'altare dell'umanità. Se invece preferisce la propria prematura ascesa al mondo soprasensibile, la corrente dell'umanità scorrerà sopra di lui. Dopo la sua liberazione dal mondo dei sensi, non potrà più acquistare per sé alcuna nuova forza. Se invece mette il proprio lavoro a disposizione di quel mondo, deve rinunciare a trarre qualsiasi nuovo vantaggio personale dal campo della sua ulteriore azione. Non si può ora dire che sia naturale scegliere la via bianca, quando si trova posto in tal modo dinanzi alla decisione. Prenderla dipende completamente dall'essere già tanto purificato da non sentire la tentazione dell'egoismo che gli fa ritenere desiderabili le seduzioni della beatitudine. Quelle seduzioni sono infatti fortissime. L'altra alternativa non presenta in realtà speciali attrattive e nulla ha che parli all'egoismo. Ciò che l'iniziato riceverà nelle sfere più elevate del soprasensibile non è qualcosa che venga a lui, ma che emana unicamente da lui, l'amore per i suoi contemporanei. Nulla di ciò che l'egoismo desidera viene negato sulla via nera. Anzi, i frutti di questa via consistono appunto nella più completa soddisfazione dell'egoismo. Se qualcuno desidera la beatitudine soltanto per se stesso, seguirà certamente la via nera, perché è adatta per lui. Nessuno perciò deve chiedere agli occultisti della via bianca che si prestino a fornirgli un'istruzione per lo sviluppo del suo io egoistico. La beatitudine del singolo non gli interessa affatto. Ognuno è libero di procurarsela a volontà. Non è compito degli occultisti bianchi anticiparla. Questi si interessano solo dell'evoluzione e della liberazione di tutti gli esseri che siano uomini o compagni degli uomini. Perciò essi danno soltanto indicazioni atte a sviluppare forze per collaborare a tale opera. Pongono la dedizione disinteressata e il desiderio di sacrificio al di sopra di tutte le altre capacità. Non respingono nessuno, perché anche il più grande egoista può purificarsi. Chi dunque cerca qualcosa soltanto con fine personale, nulla riceverà dagli occultisti, finché perdurerà in quello stato d'animo. Anche se questi non lo privano del loro aiuto, egli stesso si toglie la possibilità di profittarne. Chi perciò segue veramente le indicazioni dei buoni maestri dell'occultismo, dopo varcata la soglia, comprenderà le richieste del grande guardiano. Chi però non segue quelle indicazioni non deve neppure sperare di poter mai arrivare alla soglia grazie ad esse. Le loro indicazioni conducono al bene oppure a nulla, perché non rientra nel compito loro guidare alla beatitudine egoistica e alla semplice vita nel mondo soprasensibile. A priori, il loro compito è disposto in modo da tenere il discepolo lontano dal mondo ultraterreno, finché non vi penetri con la volontà di dedicarsi ad una collaborazione disinteressata.